93. Paste con le argiavole. La precedente minestra, paste alla cacciatora, mi ha suggerito questa che non riesce men buona. Prendete un'argiavola e, vuotata e pulita come le suddette, mettetela a cuocere insieme con un battuto di cipolla, un quarto o mezza se è piccola, un bel pezzo di sedano, mezza carota, grammi 40 di prosciutto grasso e magro e un pezzetto di burro, sale e pepe per condimento. Rosolata che sia, tiratela a cottura con del buon brodo e un po' di sugo di pomodoro conserva. Poi disossatela e tritatela insieme con qualche pezzetto di funghi secchi, se li avete uniti all'argiavola mentre cuoceva. Rimettete al fuoco questo intingolo con l'odore delle spezie o della noce moscata e un pezzo di burro impiastricciato di farina per legarlo e con esso e parmigiano condite grammi 350 di paste che possono essere maccheroni, strisce, denti di cavallo o altre simili. Questa quantità può bastare per 5 persone se non sono gran mangiatori. Se unirete all'argiavola grammi 50 di filetto di manzo, avrete l'intingolo più sostanzioso.